5M. Ascolta e trasforma. Sii sempre gentile. Siate sempre gentili. Sii sempre felice. Siate sempre felici. Sii sempre elegante. Siate sempre eleganti. Abbi pazienza. Abbiate pazienza. Abbi fede. Abbiate fede. Abbi coraggio. Abbiate coraggio.